This is Sarah's first business meeting in Italy. She's going to meet Dr. Vanini, who is not a doctor of medicine. No, non è un medico. Ma adesso ascolti le parole nuove e le ripeta dopo la seconda volta. Si accomodi. Please sit down. Si accomodi. Di conoscerla. To meet you. Di conoscerla. Biglietto da visita. Business card. Biglietto da visita. Progetti. Plans. Progetti. Tradurre. To translate. Tradurre. Adesso ripassi il nuovo vocabolario e poi continui.